Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte seconda, lezione 14. Quando vedo che le persone stanno ancora venendo, alcuni vengono una volta e poi non li vedo per un po' di tempo, e va bene lo stesso. Dà un'enorme forza. Tuttavia vedo che c'è un desiderio nella persona, un desiderio per accordarsi, un profondo desiderio per un mondo migliore. Non è facile lavorare su noi stessi, specialmente se cattivi pensieri sono rivelati dentro di noi. Il nostro ego, il nostro intelletto, ogni minuto il tuo intelletto vuole trattenerti per avvicinarti al tuo sé superiore. E cioè è ciò che intendo se dico che una persona deve accordarsi o deve sopportarlo. L'ego ti dice che è un duro lavoro, quindi prenditi un po' di riposo. Hai bisogno di riposo e devi rallentare. E questo devi concordare. All'inizio sembra estenuante, ma quando continui sai che l'altra parte si esaurirà da sé. È scritto nel Talmud: gli uomini hanno bisogno di lavorare costantemente su se stessi fino a quando non arriva al punto del suo Yetzer Hara, il suo cattivo principio, l'inizio di amarsi. Deve arrivare al punto in cui l'angelo della morte lo amerà. Puoi immaginare l'angelo della morte. Cos'è l'angelo della morte? Questa è una forza che ha portato la morte qui sulla terra per mezzo dei peccati degli uomini e alla fine si trasformerà nell'angelo della vita. Non è bello questo? Non ha l'idea che qualcosa di sbagliato è stato creato. Alla fine non c'è niente di sbagliato. Più superi te stesso, e non importa dove sei, e ognuno di noi ha la propria strada. Più si supera e più lo Yetzer Hara ti aiuterà. Certamente lo Yetzer Hara cerca di portarti su un altro percorso, ma l'unica ragione che ha è portarti il cambiamento, che avrai il cambiamento per conquistarlo. Non distruggerlo, assolutamente no. Quello che devi fare è andare oltre la tua comprensione. Sappi che lo Yetzer Hara usa il tuo intelletto, del tuo cervello. È il tuo intelletto che dice perché dovresti fare questo. Agisci normale. E non pensare che lo Yetzer Hara lo fa solo una volta alla settimana. Funziona con te ogni giorno, ogni ora e ogni minuto, anche quando stai dormendo. Ogni giorno è diverso, tu sei diverso, quindi devi fare nuovi sforzi per far funzionare qualcosa. Quando parlo dell'angelo della morte, intendo tutti i desideri morti dentro di te. E c'è solo un modo per portarli in vita. Devi andare oltre il tuo intelletto. Devi dire all'intelletto terreno nessuna più discussione, perché il serpente ha sempre ragione. Non dovresti mai provare a gestire intellettualmente la tua cattiva inclinazione. Cosa farà il serpente? Lui agisce come un santo e inizia a parlarti in un modo come: non puoi fare quello, non è moralistico. e porterà avanti tutti i tipi di argomenti per trattenerti da qualsiasi cosa tu voglia fare. Devi sapere che i suoi argomenti sono solidi, perché è davvero bravo in quello. La cattiva inclinazione è il maestro della retorica. Un po' di tempo fa ho cercato di convincere i miei fratelli ortodossi ad andare oltre il loro intelletto. Vivono sotto l'intelletto e non ci sono riuscito, perché sono molto più forti di me. Nota che ogni ortodosso ha argomenti più forti di quelli che tu hai. Sono più forti di me, ma i loro argomenti mi uccidono. Puoi discutere con la morte? Tutti i loro argomenti provengono dall'intellettuale. Sono belli, moralisti, ma non c'è vita in essi. Dall'interno ho ricevuto il messaggio per evitare le loro discussioni. Dall'interno, perché ho scelto di vivere. Nota che è lo stesso per te, perché la persona religiosa vede in questo modo la persona religiosa e anche dentro di te. E quella è la persona che va sotto l'intelletto. Tutte le forze sono dentro di te. Non dire che un gruppo è meglio o peggio. Quando parlo di persone religiose, sai che intendo le persone religiose dentro te. Come tradurre questo in forza? Lui che sta lavorando su se stesso e tu che stai leggendo questo, stai lavorando su te stesso. Quindi cerca di vedere il mondo come un'area. Qual è il significato di tutte le forze dentro di me? Dentro me ho punti di forza che si sforzano per una cosa, ossia le leggi dell'universo, del creatore. Ma ho anche punti di forza che sforzano per altre cose, per essere parte di qualcosa e ignorare la parte individuale. Con la parte individuale intendo il lavoro che faccio per e con il creatore. Tutti gli altri sentimenti che non sono corretti, ad esempio la persona religiosa dentro di me e non la persona religiosa che mi circonda, devi sapere che è più facile proiettarli all'esterno. Quando uso la parola ortodosso, ricorda che sto parlando della persona ortodossa interiore. Gli ortodossi dentro di te ti trattengono dal portare ogni cosa in un'area. Tutto il tuo lavoro è di portarlo all'unica forza creatrice, perché quello lo aiuterà e tramite lo Zohar riceverai aiuto. Ora iniziamo con lo Zohar. L'ultima volta ho parlato di macchia o senza macchia ad un certo punto. Non sapevo perché. Ora ho visto perché ne ho parlato. Era l'ultimo paragrafo di Zohar. Mi è appena venuto in mente e non so come mi fosse venuto. Non importa, non è mio. Pagina 4, seconda colonna, quinta frase. E queste cinque luci. La Torah usa cinque volte la parola luce. Il saggio disse: la luce che ha creato il Creatore il primo giorno. Adam poteva vedere in quella luce da un'estremità all'altra. Non aveva veli né nebbia perché non aveva peccato, quindi la sua consapevolezza era ancora intatta. E il creatore vide nel suo piano che nella generazione dell'inondazione e nella generazione di Babilonia, lui li guardò e vide che avrebbero danneggiato le loro azioni. A causa delle loro azioni avrebbero danneggiato se stessi. Il creatore vide questo ancor prima che lui creasse l'uomo. Già il primo giorno della creazione, lui vide che la generazione del diluvio e la generazione di Babilonia avrebbe peccato. Naturalmente, le generazioni successive avrebbero continuato con il peccato, ma ciò non è menzionato. Lui, il creatore, si alzò e lui nascose la luce da loro. Cosa significa questo? Il creatore già sapeva che l'uomo avrebbe peccato. Qui vediamo che il creatore ha già visto che l'uomo avrebbe peccato e che avrebbe cercato di purificarsi. In un certo senso, tutto ciò che vediamo e di cui parliamo è già programmato all'interno dell'uomo. Quindi è impossibile che l'uomo sia pulito dal momento in cui nasce, perché quella non era la sua intenzione. La creazione è così programmata che l'uomo avrebbe peccato e dopo il suo peccato avrebbe fatto pentimento. Perché? Solo in questo modo l'uomo può ritornare alla luce in modo cosciente. Pertanto, tutta la miseria è necessaria. Qualunque miseria conosci è sempre positiva e costruttiva. Non era sua intenzione che tu rimanessi ingenuo. L'intero significato di tutte le ascese e discese che l'uomo deve attraversare è solo per una ragione, per avvicinarsi al Creatore. È inciso nel programma che il Creatore ha creato per noi che non saremmo stati angeli e puri. C'era un solo uomo nato puro, ma non era perfetto, ma non perfetto, e quello era Adam. Perché lui è l'unico. Aveva del lavoro da fare nel Gan Eden, e con il lavoro intendiamo che lui doveva correggersi per liberarsi dalle forze impure che erano anche dentro di lui. La Torah parla di Adam come un giardiniere, il che significa che il suo lavoro era di liberarsi dalle forze impure. Sappiamo che nel momento in cui era nato era già perfetto per metà, ma il Creatore gli ha proibito di portare la luce più in basso, di portare la luce sotto la sua metà. Sotto la metà c'è Asia, anche dentro l'uomo. Sotto la metà dell'uomo ci sono i punti di forza di Asia, non gli organi, ma devi sapere che ogni cosa è collegata. Il Creatore gli proibì di portare la luce più giù, anche quando aveva avuto contatti con sua moglie Hava. Dovevano farlo in un altro modo, e ovviamente lo facevano allo stesso modo come lo facciamo noi, ma la loro intenzione doveva essere diversa. Hava è il nome ebraico per Eva, ed è molto meglio usare l'ebraico perché la forza è nascosta nei nomi ebraici. Hava è la forza di Kaya, la forza vivente. Quindi entrambi hanno dovuto fare uno sforzo per portare i punti di forza che erano sotto la loro metà a sopra. Puoi capirlo? La risposta di uno degli studenti è stata no. È buono se ti manca la comprensione. È lo stesso come facciamo nelle nostre preghiere, richieste, man. In una correzione è necessario portare tutta la forza sopra, sopra la metà. Quando stai leggendo questo, cerca di ignorare il tuo intelletto e dare allo Zohar la possibilità di spiegare. Dovevano portare i punti di forza sopra e solo da essi potevano avere rapporti sessuali. Solo in questo modo non era nel loro interesse. Qual era il peccato di Adam? Il suo peccato era che attirava la luce Kokmah verso il basso e sotto lui aveva rapporti sessuali con sua moglie, mentre l'intenzione del Creatore era che prima la doveva portare sopra e poi fare uso degli organi fisici. Ricorda, portare sotto la luce Kokmah al di sotto la metà è il vero peccato, ma ne parleremo più avanti. Il significato è che prima devi portare i tuoi punti di forza di sopra della tua metà, e questa è la tua preghiera, le tue richieste, o in altre parole, man. Deve esserci una reazione tra la tua linea sinistra e destra, e quando c'è una reazione corretta, puoi giocare con il tuo corpo, perché da questa reazione corretta una nuova parte del corpo sarà creata, e in questo caso significa che sarà creata dentro la parte superiore del corpo della linea mediana. Questo indebolisce il lato sinistro e destro, Chassadim, e dentro Chassadim è Kokhmah, il numero 13. Questo può essere portato giù. Stai ancora leggendo questo? Sappi che questo è il modo in cui il Creatore ci ha creati. E qui sta il ricevere kosher. Il peccato di Adam fu che egli ha portato la luce giù direttamente attraverso la linea sinistra. Lo Zohar ci dà un'ottima spiegazione e quello ci salverà. Quello che volevo dirti l'ultima volta era che nessun uomo fu, è o sarà mai nato puro, perché il Creatore già sapeva che la generazione dell'alluvione avrebbe peccato e tanto più le generazioni successive. Quello che vedi nella religione è che hanno fatto dall'uomo un'immagine perfetta. Per loro era immaginabile che solo il Creatore fosse integro e perfetto, e ovviamente questo è comprensibile, perché la loro ragione è di portare Hashem vicino all'uomo. Quindi doveva anche essere puro e integro, ma l'intero significato è che l'uomo deve uscire dalla sua situazione impura e venire alla sua propria realizzazione. È possibile dare una descrizione di questo? È possibile dare buoni esempi? Fino alla vigilia dell'arrivo del Messia, qual è il significato di adempimento? Qual è il significato di aver fatto tutta la correzione? Come sembra l'interno prima di ogni correzione? Non c'è mai stato un uomo che fosse puro e integro. Naturalmente c'è Abramo e altri, ma sappiamo che tutti loro hanno fatto molte correzioni, una più dell'altra. Perché qual è il motivo per cui siamo qui? Qual è il nostro compito qui sulla terra? Non si poteva dire questo all'uomo, e anche al giorno d'oggi è difficile da spiegare. Ma tu che stai leggendo questo, sei pronto per ascoltare queste parole. Tutti noi siamo impuri, siamo sporchi proprio come gli abiti che indossiamo e hanno bisogno di essere lavati. Proprio come dobbiamo lavarci ogni giorno, così anche noi dobbiamo lavare il nostro interiore. Alcune macchie sono difficili da pulire e altre non possono essere pulite. Ma il fatto è che stai provando a pulire i tuoi vestiti, a pulire i tuoi desideri e alcune macchie non possono essere lavate via. E ciò va anche bene, perché quando il Messia viene, sappi che la luce sarà così forte che ogni cosa sarà pulita. Il nostro compito è di lavare e pulire tutto ciò che è possibile, e ciò che non può essere fatto, il vestito, è pulito, ma c'è ancora una macchia. Quindi è impossibile per l'uomo pulirsi completamente. Questo può essere fatto solo con l'arrivo del Messia. Perché? Solo allora la morte scomparirà. Cosa intendiamo con morte? La morte è quella piccola macchia che è ancora visibile. È pulita, ma c'è ancora un punto. E questo è buono, così non penserai mai di essere pronto. Nello Zohar impareremo che nessun uomo muore prima di aver visto Adam. Adam è un guardiano e sta ai cancelli del Gan Eden, il paradiso, e tutti noi dobbiamo passarlo. Nel momento in cui una persona muore, la sua anima lascia il suo corpo e va a modo suo al cielo. L'ultima volta che ho parlato di queste condizioni impure, ma in verità è bene che siamo impuri, perché ora abbiamo del lavoro da fare. Insomma, questo è quello che ho cercato di dirti. Ricorda che non parlo mai di religione. È tutto dentro di te. Devo chiarire questo così che nessuno di voi possa pensare che sto attaccando qualcuno, Hashem non voglia. Chi mi sta attaccando? Quelli sono i miei fratelli dentro di me. Dall'esterno c'è pace. Non posso parlare con i fratelli esterni, i fratelli ortodossi, nel senso che loro vivono nel mondo materiale. Imparano la Torah, ma come? Io non parlo del materiale. Dentro me ho desideri che sono come ostinati, come la mia gente dall'esterno. Riporta tutto a te stesso. Questo ti aiuterà. Ho anche detto nella precedente lezione che ognuno di noi deve cercare il proprio partner. Il problema è che quando qualcuno inizia a leggere le scritture sul sito web, prende tutte le mie parole alla lettera. È comprensibile che pensi che sto parlando di questo mondo? Ma non parlo mai di questo mondo. Uso le parole e, per esempio, di questo mondo, ma non sto parlando di questo mondo. Metti questo nel profondo del tuo cuore. Se mi senti parlare di Madonna, per esempio, non pensare alla Madonna materiale, ma alla Madonna che è dentro di te. Se parlo dei miei fratelli ortodossi, so che non sto parlando delle persone che vivono qui, in questo mondo materiale. Parlo sempre di punti di forza. Quando menziono persone religiose, intendo tutti gli esseri che non lavorano su loro stessi. Stanno ancora camminando su una gamba. Gridano o cantano Hare Krishna o qualsiasi altra cosa. Ad essi mancano due gambe. Non abbiamo tutti due piedi? Siamo stati creati per usare questi due piedi. C'è il lato sinistro, il nostro cervello e l'intelletto, e c'è il lato destro, il nostro cuore. Entrambi sono necessari. Quando ti dico che hai bisogno di trovare il tuo partner, non sto parlando di un partner fisico, ma del partner all'interno. Metti questo nel tuo cuore. Non parlo mai di esseri o persone che vivono qui nel mondo materiale. Il metodo è importante. Questo è necessario sapere e ricordarlo in tutte le letture che fai, altrimenti ti perdi. Devi trovare il tuo partner dentro di te. Lì puoi trovare il tuo partner. Naturalmente è possibile trovare un partner materiale, ma non è questo il nostro compito. Il tuo compito è trovare il partner dentro di te e di conseguenza troverai anche un partner nel mondo esterno, perché finché non riconosci il partner dentro di te, il partner esterno non apparirà. Il partner esterno è uno specchio della tua radice, della tua anima. Un'anima ha due parti. L'intero significato è che lì troverete, mentre camminate in questo mondo materiale, il vostro partner interiore, che significa la parte maschile e femminile dentro di te. Questo è l'essere umano. Quando il partner esterno si presenta a te, questo è un bel regalo, ma se non succede, è come deve essere. Dimenticate ciò che la religione vi dice, che avete bisogno di un partner. Quella è una sciocchezza. Non ho nessun interesse in qualcuno, se è sposato o no. A volte capita che uno studente mi faccia domande infantili e io non lo biasimo. Il serpente sta ancora lavorando con lui e quando il serpente lavora con una persona può chiedere cose come: «Ok, capisco che la radice di un'anima ha due lati, il maschile e il femminile, ma come è possibile che un uomo ami un uomo e una donna ami una donna?» Proverò a darti una risposta in modo che tu la capisca una volta per tutte. La religione non lo capisce. È scritto: un uomo non può coricarsi accanto a un altro uomo. In passato non riuscivano a capirlo e hanno persino ucciso un uomo per questo. Ma qualcosa è cambiato? Ancora oggi lo vietano, perché ancora non c'è comprensione della Torah. tutte le cose che leggono è letteralmente per loro. Ad esempio, dov'è il paradiso? Cosa fanno? Puntano il dito verso il cielo. Ancora non c'è comprensione. Non pensate che solo le persone cattoliche siano stupide. Anche i miei fratelli ortodossi pensano allo stesso modo, come il popolo cattolico. Tutti mancano della logica divina. Sono parole da biasimare? Certo che no, usano solo la loro logica terrena. Posso spiegartelo anche in parole semplici. Il Creatore non ha nulla a che fare con i nostri corpi. Egli interferisce solo con l'anima degli esseri umani. Ogni anima dell'uomo, e non importa se è gay o etero o qualsiasi altra cosa, perché la radice di ogni anima ha il maschile e il femminile. Può accadere a causa di una correzione, a causa della realizzazione di un'anima, che la parte maschile di un'anima arrivi nel corpo di una donna, ma è il Creatore che decide questo. C'è una parte maschile e c'è una parte femminile nell'anima. La parte maschile ascende in un corpo maschile. Ma può succedere, ed è lo stesso Creatore che decide questo, perché Lui sa cosa è meglio per l'anima, per la sua correzione di venire in un corpo femminile, per dare all'anima un cambiamento, per fare alcune correzioni. Così può spostarsi in avanti e con l'aiuto di questa combinazione può ottimizzare la sua correzione. Questo è ciò che ho imparato in Kabbalah. Ari e lo Zohar, avevo gli stessi pensieri, ma devi sapere che è anche una cosa culturale. Ma non è cultura, stiamo parlando delle leggi dell'universo. Le religioni parlano ancora con il loro intelletto. Ovviamente è anche possibile che una parte femminile di un'anima divenire in un corpo maschile per la stessa ragione. Fare correzioni. Chissà cosa viene dopo. Può essere l'anima maschile che era ora in un corpo femminile entra in un corpo maschile, chi lo sa? Ricorda, dall'alto ti danno solo ciò che è necessario per lo sviluppo della tua anima. Quindi questo argomento non è importante per noi. Dall'alto è deciso ciò di cui hai bisogno, e queste parole provengono dal più profondo del più profondo dello Zohar. Senza parole parla di questo. Ciò che esiste è. Non importa come si instaura la relazione di un uomo con una donna, uomo con un uomo o donna con una donna. Se è solo per il piacere fisico è sbagliato. Le relazioni tra i sessi non sono importanti. Quello non è il soggetto. La cosa è, se c'è solo il piacere fisico, il divertimento, eccetera, se non c'è relazione con sopra, quello è sbagliato. Ma se una donna desidera un'altra donna, un uomo desidera un altro uomo, o un uomo desidera la sua donna e c'è un sentimento che è superiore, nessuno può giudicare questo. Non sto ventilando la mia opinione, non ho opinione, parlo solo di parole provenienti dalla Torah. Puoi chiedere ai miei fratelli e guarda quale risposta daranno, perché manca ad essi assolutamente la comprensione. Tutto ciò che fanno è commedia, e intanto giocano l'uno con l'altro. Ti dico che va tutto bene, ma ricorda di non giocare, perché poi stai buttando via te stesso, i tuoi punti di forza. È importante che tu sia sincero, genuino con il tuo partner, e che sesso ha il partner non importa. Ciò che importa è la tua sincerità, compreso? Non ne ho mai parlato di questo perché non stiamo parlando del mondo materiale fisico. Stiamo parlando delle anime e quando le anime sono fatte l'una per l'altra, questa sarà l'unica volta in cui ne parlerò, perché questo in un certo modo è tutto organizzato dall'alto. E ricordate, stiamo parlando di anime e non di fisicità. Ora continuiamo con lo Zohar. Questo è ciò che è scritto. E la luce, i cinque Chassadim, sono raccolti nel patto. La parola luce è citata cinque volte nella Torah. E la luce è incorporata nel Brit, in questo patto. Un sacco di cose accadranno mentre continuiamo. Il Brit entra nel giglio. È per dire queste sono cinque Chassadim. Cinque luci sono entrate nella Shoshanah o Nukva, due parole per la stessa. Nukva ascese cinque Gvurot, rifletteva i Gvurot, pertanto cinque Chassadim o la luce maschile poteva entrare. Prima sono stati incorporati nello Yesod dello Zeirampin. Yesod è la nona sfira, e quella va a Malkut, deve passare prima a Yesod. Nel corpo umano c'è anche un posto che sperimentiamo dall'interno, il posto degli organi sessuali. Per un essere umano è anche l'inizio. Tutto inizia con Yesod. Tutte le luci non venivano direttamente da Binah a Nukva. Qual è la differenza? Qual è la distanza? Binah, Zeirampin e Malkut. Zeirampin ha sei sfirot, cinque sfirot proprio sue, cinque Chassadim di Zeirampin, Kesed, Gvura, Tiferet, Netzach e Od, e c'è il sesto che è lo Sfirò che raccoglie. Yesod è il luogo di entrata di qualsiasi cosa, e da lui va alla Malkut. Proprio come possiamo vedere in questo mondo, quando un uomo e una donna si incontrano e hanno un rapporto sessuale, può nascere un bambino. Lo stesso lo vediamo qui, nello spirituale. Qui ci dice che i cinque Chassadim non vengono direttamente da Binah a Nukva. Prima arrivano a Yesod. Binah è chiamata Elohim, quindi non viene da Elohim alla Nukva. Prima va al Brit, al patto. Qual è il patto tra il Creatore e la sua nazione scelta? Questo è il patto di Yesod. solo da Yesod puoi conoscere il Creatore. Ora puoi capire perché la religione non aiuta. La religione non può dire nulla del Creatore perché trascurano lo Yesod. Il momento che si sperimenta la forza di Yesod, e questa forza viene tradotta nel nostro mondo come forza sessuale, ma è la forza creatrice dentro Yesod. In un certo modo, tutti i punti di forza dentro di noi e persino i punti di forza del superiore, del mondo Atzilut, sono raggruppati per trasmetterli alla Malkut. La differenza è che impariamo qui, nella Kabbalah, ad essere genuini e sinceri quando tocchiamo il nostro Yesod. Ed è necessario toccare Yesod perché abbiamo 9 Sfirot, e Yesod è il più forte. Qui possiamo riflettere la luce Or Kozer. Più in profondità puoi penetrare in te stesso, più forza avrai per la tua richiesta, il che significa che ora puoi riflettere la luce dal punto più profondo e questo causerà più ricezione. Yesod è molto importante perché se puoi fare il tuo man da Yesod, hai l'opportunità di conoscere il Creatore, il che significa che riceverai la massima comprensione possibile. Tutto il salvataggio proviene da questo punto. Il salvataggio risiede nel numero 13. Non ho mai trovato questo qui solo nella Kabbalah. 13 qualità di misericordia. Hassadim, ma prima devo lavorare su me stesso, altrimenti non posso ricevere il Hassadim. La prima fase è il numero 10, e quando vado più in profondità, nel senso che il Kokmah, saggezza, può entrare nel Hassadim, ho il numero 13. Ma più avanti su questo lasciamo lui che parli. Ora lo Zohar ci sta insegnando che la luce di Binah non va direttamente a Nukva, ma prima va a Yesod. E il patto nella Torah, vedi la parola Brit, è lo Yesod di Zeirampin. Sappiamo cosa e dove si trova lo Yesod nell'uomo. L'uomo deve stare molto attento con il suo Yesod. Yesod entra nella Shoshanah o Nukva e dà loro le 5 luci a Nukva. E il significato sarà spiegato più tardi. Non pensare che sia difficile, è solo un altro modo di logica. Non cercare di capire con la testa, tutto deve venire dentro di te, prenderlo e lentamente lo Zohar ti penetrerà. Nella nostra generazione non importa se sei un uomo o una donna. Ognuno di noi può ricevere il più alto del più alto, il genere non importa. Vedi, ci sono 5 Hassadim, luci di misericordia, che è apparso sopra i 5 Gvurot, come è detto sopra. 5 Gvurot ascendono. Or Kozer e la luce Hassadim entra. Si chiamano seme. Perché hanno il nome di seme? È scritto nella Torah, il Creatore ha creato colture che producono seme. la Torah interiore e segreta ci dice di cosa sta parlando. Cinque Hasadim entrati nei cinque Gvurot, questo è il seme. Cinque Gvurot salirono e in loro entrarono i cinque Hasadim. Questo è il seme di cui sta parlando. Semplice leggere le parole, la comprensione verrà più tardi. Vedi solo le parole di cinque Hasadim e non fare domande. Lo Zohar ce lo spiegherà. Ci sono cinque Hasadim e cinque Gvurot, e insieme è chiamato seme. La forza di Din è Gvurot. Gvurot è un'altra parola per Din, ma solo i cinque punti di forza di Malkut sono chiamati Gvurot. Sono nel Masak, nello schermo. Solo quando c'è uno schermo, qualcosa può essere ricevuto. Che da questa forza arriva un colpo. In un certo senso la luce colpisce il Masak e il Masak riflette la luce. Presto la luce riflessa ha la forza di lasciare entrare la luce e lui la lascia entrare. C'è un buon esempio da questo mondo. La prima volta che un uomo e una donna si vedono, lui ha interesse per lei e gli piace parlare con lei, ma vedere non è interesse. Cosa fa lei? Dall'interno lei fa uno schermo, che significa che lei lo ignora. Lei usa la sua resistenza, il Masak, per allontanarlo, ma se lei vede un altro ragazzo che le interessa, allora non c'è Masak. Non lo respinge, ma riflette la luce. Lei reagirà. Puoi vederlo come un gioco. Un uomo cerca di sedurla, ma lei lo respinge. Con seduzione intendo dire che lui le dà attenzione, luce, e spetta a lei cosa farà con la luce. Lei rifletterà la luce spingendo via la luce, le attenzioni dell'uomo. Lo stesso processo nello spirituale tra Zeirampin e Malkut. Lui dice che la forza del Masak, dello schermo, colpisce l'alta luce. Nell'esempio della donna sono i suoi punti di forza che colpiscono la sua attenzione e lo restituisce a lui. Significa che lei ignora, allontana la sua attenzione. Vedi questa forza è solo nel Ateret Yesod di Zeirampin. In queste parole sta un profondo segreto. Questo non è mai stato rivelato al pubblico. Per penetrare questo segreto è necessario un atteggiamento speciale. Non pensare che devi essere un genio per capire questo. L'importante è che ti rendi debole, morbido dall'interno, così la luce può fare incisioni dentro di te. In questo vediamo qualcosa di nuovo, cioè non la Malkut o Nukva che ha il Masak, come è stato detto prima. Ora vediamo qualcosa di nuovo e gradualmente lui ci darà nuove cose. La seconda parte di Yesod è chiamata la corona di Yesod. Ateret Yesod nell'ebraico del Zeirampin, che ha la forza di respingere. Non la Nukva al Masak, ma la parte più bassa di Yesod riflette la luce e riceve la luce da Binah, che è sopra di lui. Solo quando c'è Zivug, la luce può essere ricevuta. Quando non c'è Zivug, non c'è luce. Ricorda l'uomo e la donna, un uomo può fare qualsiasi cosa, ma fin tanto che la donna lo respinge, lui non può mettersi in contatto con lei. Ora ci sta insegnando che la parte inferiore di Yesod ha in sé la stessa forza di Nukva. Si potrebbe dire che Yesod fa in lui Zivug con il suo proprio Yesod. Succede tutto qui in Yesod e non nella Nukva. È l'ultima parte di Yesod che respinge e riceve i cinque Chassadim. E quando questo è avvenuto, può trasmetterlo a Nukva. Puoi vederlo in natura, per esempio, quando un uccello nutre i suoi piccoli. Prima lo mette in bocca, lo mastica e lo dà ai suoi piccoli. Lo stesso con Yesod e Nukva. Il maschio ha la forza di Gvurot e Chassadim. In questo modo l'uomo può essere completamente indipendente da una donna. È scritto nella Torah, in Genesi, non è bene per un uomo che sia solo, ma da nessuna parte è scritto che deve sposarsi. Non è necessario sposarsi. Come mai? Ogni cosa necessita di essere autentico. Zerampin deve essere autentico nel suo proprio Yesod. Vuol dire che deve prima masticare e poi può darlo alla Nukva. Prima, in alcune lezioni, abbiamo appreso che Zerampin dà luce Chassadim e Nukva riflette le cinque foglie dure, e anche questo è corretto. Ora vediamo un'aggiunta, ossia che Yesod di Zerampin ha due punti di forza. Possiamo dire nel lato destro a Yesod superiore, proprio come Chesed e Gvura, nella sua sinistra sono i Gvurot di Yesod. Yesod ha due lati. Nella destra c'è Yesod con la forza di Chassadim e nella sinistra c'è Yesod con la forza di Gvurot. Possiamo sostituire queste parole con alto e basso, ma parliamo di sinistra e destra a causa della forza di Chassadim. Pertanto parliamo di destra e sinistra. Quando parliamo della forza di Chokmah, usiamo le parole sopra e sotto. Ora, come ho detto, lo Yesod di Zerampin ha questi due punti di forza. Nella destra Chassadim, e i Chassadim vogliono penetrare nella parte sinistra di Yesod. Nella sinistra ci sono i Gvurot, e lei vuole riflettere la luce di Yesod. Yesod ha questi due punti di forza, sinistra e destra dentro di lui, e il suo lato sinistro riflette la luce di destra dentro di lui. Come mai? Ora può prima ricevere la luce dentro di lui e dopo la ricezione può trasmetterla alla Malkut, perché Malkut Nukva non è completa qui nel mondo Azilut. Solo a causa dell'irruvidimento dei punti di forza, prima c'è la necessità di irruvidire nello Yesod di Zerampin, prima che possa essere dato a un grado inferiore. ci insegna che la forza del Masak è qui con Ateret Yesod o Ateret Yesod, la seconda forza nella parte più bassa di Yesod. Sii paziente, va bene se non c'è comprensione, più tardi avrai più sentimento. Potrei spiegare di più, ma se non c'è comprensione, che cosa fa l'uomo? Lui comincia a ridere. Non pensare che le risate siano cattive, ma se non c'è comprensione, l'uomo inizia a ridere. Perché in questo caso ridere non va bene? Con le risate tutta la sofferenza trova una via verso l'esterno. L'uomo ha bisogno di ridere per dimenticare tutta la sua miseria. Avere un sorriso è molto meglio. Significa che c'è più Kassadim che Gvurot. Quando c'è un sorriso significa che hai conquistato un po' di te stesso. Prendiamo ad esempio i vecchi filosofi. Voltaire poteva sorridere, era un po' scettico. Ho letto di Candido, una grande storia, ma con un sorriso. Non c'è motivo di ridere. Le risate sono con coloro che ancora non sono corretti. Ridere significa che lui tocca i suoi problemi, ma non può scendere al suo Yesod. Quando qualcuno è arrivato al suo Yesod, sorriderà. Yesod è così grandioso. Devo stare attento con le mie parole, considerando Yesod, perché non è facile capire come funziona tutto. È con Yesod che ognuno di noi può costruire la sua relazione con il Creatore, non sotto forma di religione o altro, solo qui in Yesod. Ecco perché sono così attento. Cosa c'è scritto su Yesod? Qui è il patto, il Brit Milah, la circoncisione. Non pensare che abbia qualcosa a che fare con il corpo fisico, con il materiale. Il Creatore ha fatto un patto con il suo popolo, con l'uomo. Se non sei un ebreo, dimentica tutto questo. Il problema è, nel momento in cui qualcuno sente la parola circoncisione, pensa al mondo fisico, e non lo è. Ognuno di voi sperimenterà prima o poi la circoncisione interna nel suo Yesod, e quando quel momento è lì, sarà l'ebreo più perfetto. Ma l'ebreo esterno, che è circonciso e non sperimenta il suo Yesod, è come un bambino. Il Creatore lo vedrà come un bambino. Deve sopportare molta sofferenza prima che lui possa sentire il suo Yesod. Che cos'è Brit Milah? Brit Milah, Brit è il patto, e Milah è la circoncisione. C'è anche un altro significato di Milah, ossia parola, il patto delle parole. Quindi c'è il patto della circoncisione e il patto delle parole, due cose diverse. A poco arriverai a una comprensione ed esperienza più profonda di Yesod, anche le donne che stanno leggendo questo. Tutte le parole che pronuncio sono necessarie. Sento che c'è una spinta dentro di me per sovraccaricarti della mia spinta. Tutto ciò che ti dico è solo la mia reazione su di te. C'è di più che solo di trasmettere il materiale. Anche la spinta è necessaria. Non pensare che io spinga all'esterno. spingo l'interno perché non ho interesse per il tuo esterno. È l'essere interiore che spingo, quindi può esserci una reazione. Studente, ma questo non ti fa uomo nell'esempio dove la donna respinge? La cosa è, il tuo interiore ha il desiderio di sentire questo. Dall'interno siamo tutti collegati, ma ogni anima ha il suo colore specifico. Non posso dirti perché lo sto facendo, è così com'è. La mia spinta è come fare incisioni. Non resistere alle mie parole, perché la resistenza viene dall'esterno. Il tuo interiore lo desidera. Non era mia intenzione insegnare lo Zohar, ma devo ascoltare ciò che mi viene rivelato. Non posso ignorarlo. Renditi ricettivo. Ognuno di voi può sperimentare. Ora torniamo a Yesod. Come ho detto prima, Yesod ha due parti, la parte inferiore e la parte superiore. Più tardi, quando le risate sono finite, posso andare più in profondità considerando la parola circoncisione, ma per ora c'è il confronto con la carne e uno pensa al fallo, ma Ateret Yesod significa la corona di Yesod. Più avanti impareremo il significato profondo di questo. In passato era necessario che l'uomo facesse la circoncisione, ma oggigiorno non ci sono restrizioni per entrare nello spirituale. Tutto ciò che ti dico è spirituale, non c'è una sola parola sulla carne, ma l'esempio è della carne, ma non riguarda la carne. Metti questo nel profondo del tuo cuore. Finché un uomo non è circonciso, Yesod è coperto, non può ricevere la luce del Creatore. Un ragazzo ebreo viene circonciso dopo pochi giorni dalla sua nascita, quindi ogni uomo ebreo, la sua corona è visibile, non è più coperto, il che significa che è pronto a ricevere la luce. Qual è il collegamento con la carne che non sappiamo, ma devi sapere che nessuno può fuggire da questo posto, nemmeno un ebreo che è circonciso. Uno deve venire all'esperienza di ciò che è Yesod dall'interno. Solo dall'interno puoi formare un contatto con il Creatore. A questa nazione è stato dato di portare via quel piccolo pezzo di carne, ma altri hanno seguito questo. Per esempio, i musulmani fanno lo stesso. L'età può essere diversa, ma l'aspetto corrispondente è che a tutti manca la comprensione più profonda di ciò che stanno facendo. Solo quando sperimenti il tuo Yesod dall'interno puoi arrivare alla relazione personale con il Creatore. Se pensi che sia sulla carne, cosa si pensa sulle donne? Le donne devono essere anche attente con il loro Yesod. Perché? È spirituale. Come puoi costruire la tua relazione personale con il Creatore? Presta attenzione al tuo Yesod. Abbatti tutte le tue forze e quando sperimenti il tuo Yesod puoi sperimentare la luce. Vieni al tuo punto più basso e vedrai il più alto. Questa è solo la lezione 14, e tuttavia stiamo parlando del più alto aspetto spirituale, vale a dire Yesod. Con il tuo Yesod puoi sperimentare l'alto e il basso, e per questo costruisci la relazione personale con il Creatore. Essi parlano nel mondo di questo. Io non la penso così. Cosa dicono? Gli uomini non sono pronti, dicono, e li trattano come bambini. Nella religione evitano questo posto, ma mai c'è un altro modo per venire a compimento se non di sperimentare il tuo Yesod. Lavora con il tuo Yesod e dal tuo Yesod puoi dare alla tua Malkut. Tutto ciò che è sporco puoi renderlo pulito con il tuo Yesod. La forza di Yesod è ora disponibile per la tua Malkut, e ci sono le macchie di cui stiamo parlando. Naturalmente una macchia rimarrà, ma la maggior parte verrà lavata via. Da una parte voglio fare disegni, ma dall'altra voglio che tu senti il tuo Yesod. Ascolta attentamente. Leggi parecchie volte questa lezione, così tu puoi sentire di cosa sto parlando. Non posso disegnare sul tabellone. Yesod è dentro di te. È l'ultima stazione in cui la luce può arrivare. La Teret Yesod, o la corona di Yesod. E ricorda che non solo gli uomini hanno una corona, per le donne è lo stesso. È spirituale, ricorda. I primi 9 Sfirot sono le qualità della luce, del Creatore. Malkut è una più difficile. Via Yesod, attraverso Ateret Yesod, la luce va a Malkut. In questo modo i 9 Sfirot della Malkut possono essere evidenziati, e l'ultima, la Malkut de Malkut, qui sono le macchie più ostinate. Fino all'arrivo del Messia non può essere pulito. Il nostro compito è correggerci completamente, ma ci sarà ancora una macchia. C'è ancora l'esistenza della morte. La morte scomparirà dopo l'arrivo del Messia, il che significa che l'ultima macchia verrà pulita. Finora non ho parlato dello Yesod nell'uomo. Ho parlato degli Yesod di Zerampin, provenienti dal mondo Azilut, perché tutte le correzioni provengono da questo mondo, da questo punto. Tutta la luce proviene da questo punto. Naturalmente ci sono altri mondi. Bria, Yetzira, Asia, e tutti questi mondi sono dentro di te. Vedi questi mondi come la stampa blu, solo la loro qualità è un po' inferiore. Cosa ne dici di Yesod dentro le donne? Ora sai che non sto parlando della carne. Un cabalista conosce le leggi dell'universo, conosce Zerampin, conosce del sistema operativo, e una volta che sai questo, sai cosa si intende con Yesod, con Malkut, come sopra, così sotto. Poi sai come funzionano le donne. Sai come tu funzioni e puoi lavorare su te stesso, non con la religione. Le idee religiose non ti dicono cosa fare. Vedi l'accordo con le leggi dell'universo e lo saprai. Non c'è seguimi nella Kabbalah, c'è solo segui te stesso. Lui tira i loro 5 chassadim. Mazal è una parola ebraica che viene spesso usata qui ad Amsterdam. Il significato è felicità, fortuna o qualcosa del genere. Ma Mazal ha anche il significato di chi usa le stelle, lo zodiaco, e qui vediamo un altro uso della parola, ossia che ogni cosa è collegata con un'altra. I cinque chassadim sono tratti dalla parola Mazal. Mazal è un'altra parola per Yesod, solo su un livello superiore, in cima di un parzuf. Come già sai, ogni cosa ha 10 sfirot. Nella testa c'è Yesod, nel corpo è Yesod e sotto c'è Yesod. Keter, Kokhmah, Binah sono la testa e da qualche parte nascosto è Yesod. Keter, Kokhmah, Binah, 10 o 5 sfirot, se non c'è memoria cerca la risposta negli altri ebook. Il luogo di Zivug è il luogo dove è Yesod, perché Yesod è il luogo in cui la sua luce può essere riflessa. Quando vedi un uomo che bacia una donna, ricorda che le loro labbra sono in accordo con la bocca, e la bocca è l'ultima parte della testa spirituale. C'è Keter, Kokhmah, Binah, e la bocca è Malkut, o Lateret Yesod di Binah. E qui vediamo anche Zivug. Quando un uomo bacia una donna, anche questo è Zivug, uno Zivug spirituale. Quando c'è Zivug sul livello degli organi sessuali, allora parliamo di Yesod de Yesod, non dello Yesod nella testa, ma del Yesod generale di tutte le 10 sfirot. Nel generale c'è Yesod se parliamo di 10 sfirot. Questo è il vero Yesod. C'è anche Yesod della testa. Keter, Kokhmah, Binah devono essere visti come uno, e c'è anche Yesod. Nel corpo sono Chesed, Gvurah, Tiferet, e li puoi vedere anche come 10 sfirot, e ovviamente c'è anche Yesod. In un certo senso è fisico, e tuttavia non stiamo parlando del fisico. A ogni livello c'è Zivug. Quando parliamo della testa, di Keter, Kokhmah, Binah e dell'ultima Malkut, anche la bocca ha Zivug. Ecco la prima riflessione della luce, e da quel punto la luce può entrare nel corpo. Questo è ciò che la donna ha fatto nel nostro esempio. Ha guardato se lui potesse corrispondere con lei, e questo succede nella testa. Ricordo di aver detto a mia figlia, quando aveva 14 anni, di stare attenta anche con i baci. La sua reazione è stata: «Ma sono baci, papà, non succederà nulla». E ovviamente non succede nulla quando c'è solo un bacio, ma un bacio è già un tipo di zivug, e le persone che sono molto sensibili, un bacio è l'inizio del resto. Sai cosa intendo? Un bacio è uno zivug spirituale, e qui è importante restare puri, puliti. L'ho solo baciato, ma devi sapere che le labbra sono molto sensitive. Capisco che non comprendi, questo è solo un esempio. Stai attento a ciò che fai. Qui lo Zohar sta parlando della corona di Yesod, dei cinque Chassadim. Più avanti approfondirò questo argomento, non ora. Ci sono persone che studiano la Kabbalah per molti anni e ancora non capiscono il significato di questo. Traducono la parola Mazal come stelle, ma Mazal significa anche Yesod. Zal è una parola ebraica per gocce. Le gocce di luce sono chiamate Mazal, proviene dalla parola versare. Le luci che riceviamo sono come gocce dell'alta luce che si riversa su di noi. Ogni giorno riceviamo gocce di luce. Ci dice che lo Zerampin riceve dal Mazal Vena Ke nel giorno di Yom Kippur. Ti ho detto che Mosè ha ricevuto dal Creatore 13 qualità di misericordia. L'ultima parola era Vena Ke, con il significato di e lui purifica. Possiamo parlare delle 13 sfirot generali, ma ci sono anche 13 sfirot nella testa, e il più basso dei 13 nella testa è chiamato Vena Ke, è un posto nella testa. Sul livello più basso della testa c'è una barba, proprio come ha un uomo. Sulla fronte non ci sono capelli, ma l'uomo può avere una barba, e il confronto con la forza dell'universo è il modo in come la luce entra. Naturalmente nel fisico non arriva luce attraverso una barba, ma deve essere tutto in accordo con sopra. Quindi un cabalista alla barba e non solo per la tradizione. A livello delle orecchie puoi vedere due peios, riccioli. Per me è facile vederli. Kel rakum ve hanum. Ci sono 13 punti come in agopuntura. Un agopuntore conosce esattamente i percorsi delle energie. Lo stesso con lo spirituale, colui che è connesso, sa che ci sono 13 punti nel viso dell'uomo spirituale, non di carne, ma come sapete c'è sempre bisogno di un accordo. Ci sono 13 punti nella barba, non la barba fisica. Ari mi proibisce di radermi la barba. Qual è il significato spirituale di una barba? Se la luce viene dai capelli, significa in lunghezza. Qual è il significato dei capelli? È spirituale, ha il significato di canali sottili, in cui può venire la luce debole. Perché? Perché sono canali sottili. La barba è un'analogia di canali sottili. L'inferiore può andare meglio, ma su questo è per più avanti. Mazal nella testa significa Yesod nella testa. Nella barba c'è anche un punto con il nome di Mazal, e da questo punto Yesod riceve. Il vero Yesod è il Mazal di Yesod. Come sapete, in ogni cosa ci sono 10 sfirot, quindi c'è Yesod dei Yesod della testa. Più avanti ti darò più dettagli, ma per ora è importante la parola Vena Ke, e lui purifica. Vena Ke e purifica. Questa è l'ultima parola delle 13 qualità di misericordia provenienti dal Creatore. Semplice leggere queste parole, e quando continui arriverà un momento in cui riconoscerai le parole e le capirai. Per ora è importante che tu non abbia alcuna resistenza, così l'interiore può ricevere. Quello che voglio è che ognuno di voi che sta leggendo questo lavori su di sé. Ascoltare da dentro significa giustificare senza capire. Voglio che tu dica non capisco, ma verrà dopo. E la Nukva riceve da lui, da Yesod, solo la lucentezza, non la vera luce, ma la lucentezza come un ramo, non come una radice, ma come un ramo di Zerampin. Basta essere ricettivi e tutto è ok. Ebbene, se non si capisce il significato, devi lavorare duro per essere aperto, per essere ricettivo. Sarà il tuo merito. È bello se c'è comprensione, ma è ancora meglio se non capisci e ancora continui la lettura. La comprensione arriverà dopo l'esperienza. Prima l'esperienza e poi la comprensione. E quindi Yehuda Ashlag dice che la cosa principale dello Zivug è che si svolge sul Masak. E tiri su 5 Gvurot significa Or Koser, la luce riflettente, che tirano a lui e vestono i 5 Chassadim. Il paragone è questa parola che è con la donna che dà il permesso al suo uomo di entrare in lei. Lo stesso con Nukva che riflette la luce in cui può venire Chassadim. Lui non usa il nome di Nukva. Succede tutto in Yesod. Yesod ha due cose, Yesod e Ateret Yesod, che significa la corona di Yesod. La corona di Yesod è come Nukva. E qui è la riflessione dei 5 Gvurot. Questo non avviene nella Nukva, ma nella parte più bassa di Yesod. In un certo senso il maschile Yesod ha il maschile e il femminile. Questo è un enorme segreto. Qui ci sta insegnando che Yesod ha entrambi. Sappiamo che l'uomo è creato con il lato maschile e femminile, ma ancora non c'è comprensione del vero significato di questo. Naturalmente alcune persone lo capiscono, ma la cosa è che ci sono persone che hanno la conoscenza ma non la trasmettono. Queste sono le 5 luci, come è scritto nella Torah, sia la luce, eccetera. 5 volte è menzionata la parola luce nella Torah. Come è dato sopra? Vedi, lo Zivug è stato fatto nello Yesod di Zerampin. Non tra Zerampin e Nukva, come abbiamo imparato prima. Non pensare che ci abbia dato false informazioni, per amor del cielo. No, ora ci dà solo più dettagli. E lui prima ha fatto Zivug e poi lo ha passato a Nukva. Yesod fa parte di Zerampin, il luogo dove lo Zivug si svolge. Zerampin è la forza e Yesod è incorporato in lui come un posto dove può entrare in contatto con la sua Nukva. Prima lui fa Zivug con se stesso, perché Yesod di Zerampin ha due Yesod. C'è Yesod della destra e c'è Yesod della sinistra. O in altre parole, c'è Yesod superiore e inferiore. Per te è importante sapere che la corona di Yesod tira le Gvurot, Qui è la risposta al Yesod superiore e lui dà la luce Hassadim. Questo processo è chiamato nella Torah con il nome seme. È detto nello Zohar che Zerampin dà il suo seme a Nukva. Lui dà questa miscela di Chassadim e Gvurot alla sua Nukva. Prima lo zivug dentro se stesso e dopo lo passa a Nukva. Delle grandi cose ci dice. In questo vedi che ogni cosa è all'interno di una persona. L'uomo ha anche il maschio e la femmina nel suo Yesod. Uno dà Chassadim, la parte maschile di Yesod, e uno riflette la luce, la parte femminile di Yesod. E questo è ciò che vuole che ascoltiamo. E questo seme, che sono 5 Chassadim e 5 Gvurot, è nella parola Brit, patto realmente. Il patto Brit è Yesod, così come 5 Chassadim, come 5 Gvurot sono in Yesod, e Yesod li passa alla Nukva. Questa miscela di 5 Chassadim e 5 Gvurot si chiama seme Zera. Zera. Ora sai di cosa sta parlando la Torah quando leggi. Ad esempio, produce seme, alberi, eccetera. Yesod li ha entrambi. La Torah usa anche le parole come divine, una persona che ha il frutto di Hashem. Ora sai cosa si intende. Cioè questa persona ha entrambi, la parte maschile e la parte femminile nel seme. Questo è qualcuno che mostra misericordia, può avere amore per qualsiasi essere. Significa che questa persona ha sviluppato dentro di sé la miscela del seme maschile e femminile. Abbiamo finito. Non è stata una lezione facile, ma è fatta. Non avrei mai pensato di poter pronunciare queste parole, ma con l'aiuto di sopra puoi vedere che molto è possibile.